quella di me nonna, che quella ti dica su. Se l'ho imparata da mia nonna, mio che avevo 6-7 anni, e era: ascoltate tutti quanti la gran storia di Pierina, una bella ragazzina delle ricchezze in quantità. Ed essendo ricca e bella, dagli amanti era amata e da tutti era stimata la miglior della città. Non avendo padre e madre, non avendo alcun fratello, un visetto così bello che faceva innamorar. E col dolce suo sorriso produceva molti affetti. Quasi tutti i giovanetti la volevano sposar. Ed allora la Pierina si è promessa con Bastiano, giovanotto bello e sano, più sincero nell'amor. Ma il povero Bastiano fu assai molto disgraziato, che toccata dal soldato a servir l'imperatore. Ed allora la Pierina l'ha preso per una mano, l'ha gadito mio Bastiano, guarda ben non mi tradir. Resta sempre a me fedele, che fedele a te son io, don ti faccio del cuor mio che con te voglio morir. Ed allora lo Bastiano fu chiamato al reggimento e Pierina in sul momento s'è cambiata di pensier. E fissando un altro amore al grazioso Costantino, ed il povero Bastianino è restato all'Arbandon. Ed allora lo Bastiano, a sentire un tal successo, si fe fare un bel permesso per venirla a ritrovar. E io son venuto apposta, son venuto a ritrovarti, ho deciso di sposarti che con te voglio morir. Ma se sei venuto apposta, vatten pure al tuo destino. Ho promesso a Costantino, Costantino voglio sposar. Costantino è il mio diletto, Costantino è il mio amoroso. Costantino sarà il mio sposo, Costantino voglio sposar. Ed allora lo Bastiano, senza proferir parola, con un colpo di pistola terra morta la lascia. E m'appena l'ebbe uccisa, tutto pieno di livore, e la sventra e prende il cuore e m'asseco lo portò. E andò in un'osteria, si fe dare una stanzetta ed una padeletta per poderlo ben rostir. Io ti invito, Costantino, a un diletto e buon disnar. Questo cuore è così buono che di più non posso dir. Mangia, mangia, anima bella, mangia il cuor d'una vitella. Mangia il cuor d'una vitella, non saprai più digerir. Io ti invito alle mie nozze, faccio nozze con Pierina, che domani di mattina io la credo di sposar. No, no, no, amico mio, non sia mai vero che tu sposerai Pierina. Se non credi alle parole, vieni al campo di Pierina, che la trovi poverina, che nel petto cuor ne non ha. Sta chi non parada che nel petto cuor non ha. E gli prende una pistola, verso il campo si cammina e sul corpo di Pierina anche lui se ne morì. Ecco, così è la finale. E a morti tutti due, si erano promessi in principio. Sta chi l'ha parata da mia nonna, dunque era la mamma di mio papà, che aveva più di 200 anni, sta storia qui. Di quelli da sti anni antichi, non l'ho ancora mica scritta, solo che l'ho sempre tenuta a mente. Mia nonna la canteva, perché lei da cantare sta canzonchina. L'aria, sì. Ascoltate tutti quanti la gran storia di Pierina, una bella ragazzina delle ricchezze in quantità. Ed essendo ricca e bella dagli amanti era, ma così sì, la canteva. Non parare, sta qui da mia nonna, che era una putelota, mio che ero 5 quando veniva a pascolare con la vacca, me la canteva asciutta.